La versione di Oscar Giannino. Buongiorno, anzi buon pomeriggio cari ascoltatori, in questo pomeriggio del 6 gennaio, cioè della Befana. Immaginiamo che a quest'ora parecchi di voi o stiano rientrando o stiano per rientrare, visto che pare, i numeri dicono che molti hanno protratto ulteriormente le vacanze natalizie di Capodanno approfittando di questa Befana che capita il mercoledì. E allora abbiamo pensato di dedicare questa trasmissione, senza neanche chiedervi di mettervi a telefonare, però immaginando che o siete per strada o vi accingete ad andare per strada o su un treno e così via, di toccare proprio due punti fondamentali delle novità dei trasporti in questo inizio d'anno. E cominciamo da una novità della quale tutti farebbero a meno, ma che in realtà puntualmente arriva per gli aggiornamenti delle tariffe. Stiamo parlando soprattutto di tariffe autostradali, perché dal 1 gennaio sono stati concessi, riconosciuti aumenti a 6 società concessionarie autostradali, tra l'altro 4 riguardano la Lombardia. A questi poi si sommano anche gli aumenti delle tariffe ferroviarie sull'alta velocità, e quindi siamo in presenza di rincari che in alcuni casi sono molto molto significativi, per così dire, perché una delle concessionarie sulle quali l'aumento è più significativo, per esempio sull'autostrada Milano-Torino, stiamo parlando di 142 km di tratta, l'incremento è del 6,5% del pedaggio. Intorno a Milano aumenta la TEM, la tangenziale est di Milano, anche in questo caso 2,10%, aumenta dell'1% la pedemontana lombarda. Molti di fronte a questi aumenti pongono la rituale domanda: ma come funziona davvero il criterio degli aumenti che vengono riconosciuti ai concessionari? Ciò che noi giornalisti scriviamo puntualmente è che gli aumenti vengono concessi in ragione degli investimenti, e naturalmente chi poi paga questi aumenti dice: ma come, siamo in un periodo di deflazione, e a fronte della deflazione il contributo pubblico che viene attraverso le tariffe è la vera lotta all'inflazione, perché stiamo parlando di aumenti delle tariffe significativamente diversi dall'inflazione assolutamente piatta, come sapete, a zero, ma che anche sommati negli anni hanno poi degli andamenti che non trovano alcun corrispettivo rispetto all'andamento dei prezzi ai consumi. Allora uno dice: sì, ma sono gli investimenti, e la gente resta coi dubbi grattandosi la testa. Allora, questo primo aspetto, perché poi toccheremo un altro aspetto, quello del trasporto pubblico locale dei pendolari, questo primo aspetto ce lo facciamo spiegare da un luminare, cioè insomma uno di coloro ai quali spesso chiediamo di spiegare a noi tutti i misteri di come funzionano i prezzi dei trasporti pubblicamente regolamentati. E con noi in questo giorno della Befana, io lo ringrazio, il professor Marco Ponti, che insegna economia applicata al Politecnico, scrive sulla voce.info, e proprio stamattina sul Fatto Quotidiano, per chi legge il Fatto Quotidiano, troverete un articolo proprio dedicato agli aumenti delle tariffe consentite ai concessionari. Buon pomeriggio e grazie professor Ponti. Buon pomeriggio a voi. Allora, torniamo a un punto. Ci eravamo occupati poco tempo fa degli aumenti delle tasse aeroportuali, e ci spieghi un pochino il 6,5% sulla Torino-Milano, tanto per cominciare da questo, è giustificato secondo lei? Ma è giustificato da un sistema assolutamente forsennato di accordi fatti. E purtroppo gli accordi fatti tra lo Stato e un privato formalmente vanno rispettati. È che l'accordo è forsennato, perché come ha dichiarato in pubblico l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, il sistema di regolazione, cioè di fissazione delle tariffe delle autostrade, è il paese di Bengodi per i concessionari. Cioè possono solo guadagnare o di più o di meno, ma non possono mai perdere. E hanno remunerato gli investimenti. Aspetti, che significa non possono mai perdere? Può capitare a chiunque privato di perdere, soprattutto negli anni che abbiamo passato alle spalle. Ma non a loro, questo è noto. hanno firmato dei contratti di concessione di cui non è segreto il contenuto. Tra l'altro anche questo appare abbastanza stupefacente. Non si può conoscere il piano finanziario né i tassi di interesse che sono riconosciuti come remunerazione del capitale investito a questi concessionari. Ma perché sono e restano, pur passando e cambiando i colori politici dei governi, segreti i patti con i concessionari dello Stato? Per un cavillo giuridico, perché il concedente è formalmente una SPA, una società per azioni, sì. L'ANAS, quello che dà la concessione, certo. Che è tutta pubblica, e il concessionario è un privato, è un'altra SPA. Formalmente i patti tra SPA sono riservati, cioè non sono conoscibili al pubblico. In questo caso la cosa è vistosamente assurda. Ma se l'ANAS è strapubblica? È strapubblica, ma è un SPA. Ed è stata fatta un SPA per quello, cioè è un po' crudele dirlo, ma è uno degli scandali più incredibili della mala gestione italiana. Cioè è tutta pubblica, ma è formalmente un SPA. Quindi, e tra l'altro ci sono una serie di modelli diversi di concessione con criteri diversi di regolazione delle tariffe che non si possono conoscere, però sono inattaccabili. Però perché... questo, aspetti, se oltretutto sappiamo, sia pur senza conoscerli i patti concessionari, che i modelli in base ai quali i diversi patti concessionari sono stati realizzati sono diversi, ma gioco forza pensare che ci possa essere un margine per una discrezionalità dovuta magari ai rapporti del concessionario con il concedente a seconda della loro simpatia o vicinanza nel momento in cui sono stati realizzati i patti, perché se non lo sappiamo come facciamo a escludere questo dubbio? Infatti non si può fatto escludere, è una delle cose più certe, direi, che tutti questi accordi avevano tutti una base politica, anche perché spesso i concessionari sono compartecipati da soggetti pubblici e quindi l'intreccio pubblico-privato è uno dei peggiori, e sono delle straordinarie mucche da mungere gli automobilisti, nel senso che i profitti di questi concessionari ci sono comunque anche per esempio se il traffico scende, perché loro non possono, è l'unica cosa nota di questi patti, in nessuna condizione perdere soldi, cioè non rischiano mai nulla sul loro capitale investito, che spesso il capitale investito iniziale, cioè quello messo davvero dai concessionari, è molto piccolo, ma si è accumulato su se stesso grazie ai profitti degli anni precedenti. Ogni anno i profitti venivano ascritti a nuovo capitale e questi andavano remunerati con un saggio di remunerazione che sembra essere in generale molto generoso e arbitrario. Questo è vero per moltissimi concessionari. Per Autostrade per l'Italia è un po' diverso, che è il maggiore concessionario, perché quelli hanno versato dei soldi, e anche tanti, circa 7 miliardi di euro allo Stato per avere la concessione. Però le condizioni erano comunque così favorevoli che dai conti che si possono vedere hanno recuperato rapidamente questi 7 miliardi e adesso vivono felicemente dopo averli recuperati. Cioè è una delle storie più stravaganti, e poi dovrebbero andare in gara queste concessioni e invece trovano tutti i governi insieme, siccome sono fonte di denaro straordinaria, trovano i vari modi per non farli andare in gara, cioè non consentire di ritornare a una situazione normale, ma continuare il festival. Ma io ho due domande. Il reddito negli altri paesi avanzati funziona allo stesso modo questo patto di segretezza? In un paese in cui niente è segreto, sono segreti i patti concessionari tra lo Stato. No, non mi risulta. Ecco. Mi risulta una straordinaria eccezione italiana, ecco. Ma veramente straordinaria. Cioè, ci sono state storie non tanto belle anche in Francia con concessionari che sono falliti e poi lo Stato li ha rimborsati anche se erano falliti, cioè storie di questo genere ci sono state anche altrove. In Germania sono non ci sono strade a pedaggio. No, ma noi abbiamo appreso recentemente che la Brebemi, dopo essere stata vantata sempre in Lombardia come l'opera fatta col project finance, tutto privati eccetera eccetera, di fronte a volumi di traffico che non sono tale da consentire a chi l'ha realizzata, la gestisce oggi, alla società che la gestisce, degli utili, comunque poi lo Stato, cioè il contribuente, cioè noi tutti siamo chiamati a ripianare. È vero, perché i patti sono di quella natura, il concessionario non può mai perdere soldi, ma se il traffico diminuisce paghiamo noi. Professor Ponte, ma possibile mai che nessuno abbia provato un'azione giudiziale per far decadere questa segretezza? Se ci sono state queste azioni, sono state respinte. Formalmente è un patto tra privati, questi vincono le cause se si cerca di cambiargli le regole, perché è un patto scellerato, ma è un patto, è un contratto scritto tra privati. Lo Stato non può cancellare un contratto tra privati. Questi ricorrono alla Corte di Bruxelles e vincono le cause, il che è allucinante. Ma questo significa che se un governo volesse mutare questa segretezza, comunque la legge glielo impedirebbe? Avrebbe delle difficoltà. Ma secondo me, se c'è una volontà politica forte, potrebbe farlo, ma avrebbe delle difficoltà. Questo è indubbio, come d'altronde è successo per il ponte sullo stretto o i grandi contratti per le linee di alta velocità. Ma non basterebbe spostare il concedente dall'ANAS, che forma di SPA, all'autorità di regolazione? Non è certo, perché la parte lesa, diciamo che abbiano ragione i concessionari, la parte lesa ha firmato quel contratto lì e quindi dice per la trasparenza, perché si sappia. Forse sì, bisognerebbe, però loro dicono, io non sono un giurista, loro dicono noi abbiamo firmato a quelle condizioni. No, loro impugnerebbero, potete, comunque, certo, perché direbbero è una violazione. Non comunque cambiarci quelle condizioni. Ho capito, però non si è mai visto un paese in cui una cosa allucinante. Solo una categoria di privati non può fallire, sì. Non può rimetterci. Infatti, una cosa assolutamente. Ma chi li giudica invece gli investimenti che vengono adottati come criterio giustificativo pubblico? Formalmente l'ANAS, ma in realtà tutti sanno che gli investimenti vengono fatti molto in accordo con i concessionari, e per di più i concessionari guadagnano anche sugli appalti negli investimenti, cioè non è che sono solo rimborsati, perché facendo quel che si dice appalti in house, cioè a imprese loro di costruzione, certo, guadagnano anche sugli appalti le imprese guadagnano ancora sugli appalti, quindi senza perché fine. Tra le varie anomalie, visto il meccanismo segreto di remunerazione del capitale, non è neanche vietato loro di usare imprese in house per la realizzazione degli appalti. No, c'è un gran dibattito, dal 40% al 60%, ma una buona quota degli investimenti sono fatti da imprese in house, su cui loro fanno profitti di nuovo, e nessuno sa bene quali sono. L'ANAS dice ma noi controlliamo che i costi siano efficienti, ma nessuno, è tutta una cosa in famiglia, non so se ho reso l'idea. No, purtroppo io spero che la stiamo rendendo a chi ci ascolta, perché è uno spaccato, sì, è una cosa veramente vertiginoso. Poi Castellucci, che è uomo d'onore, l'amministratore delegato di Autostrade, dice è il paese di Bengodi, il sistema di concessioni autostradali in Italia è il paese di Bengodi. Se lo dice lui, voglio dire. Ma quello che a me colpisce, professor, poi lei segue questo settore, lo studia palmo a palmo. Quello che mi colpisce è che io sono andato a cercare prese di posizione di leader politici o di ministri o di presidenti del Consiglio su questa segretezza dei patti, ma non ne ho trovata mai una. No, perché non è attaccabile la cosa, è per legge. È una cosa folle, ma come le dico, è quello che è il politico che firma una concessione per un tratto di alta velocità senza che ci, e questo è successo nel 1992, che ci siano i soldi per il ponte sullo stretto o per le tratte ad alta velocità, e questo è vincolante, cioè quello per il concessionario di quella costruzione, se non viene costruita quell'opera lì, ha diritto a un'infinità di soldi pubblici, e il politico ha firmato senza che ci fossero disponibili questi soldi pubblici. Intanto, quello è addirittura criminale. Che abbiamo spiegato a tutti voi che viaggiate e che sarete chiamati in molte tratte a delle tariffe aumentate dal 1° di gennaio, che non avete titolo per sapere in base a che cosa in realtà quegli aumenti sono determinati, qual è davvero davvero il criterio di remunerazione in capitali. Sapete solo che i patti sono diversi da privato a privato, ma noi non abbiamo diritto di conoscerli. Voglio da grande fare il concessionario autostradale, con lo Stato che mi garantisce che non ci rimetto un anno sull'altro, posso solo fare più soldi e comunque gli investimenti li misuro con un amico che decide a quel punto di remunerarmeli ancora di più. Tanto faccio lavorare anche l'impresa mia negli appalti, quindi raggiungo una condizione che a nessun altro privato è consentito. Dio perdoni chi ha fatto queste norme. Io sono per il mercato, ma questa roba col mercato e con un mercato che consente ai privati di fare il loro mestiere non ha niente a che fare. Questa è opacità medievale, è uno Stato assoluto che fa patti in segreto, in camere oscure, con privati amici. E questa roba è una vergogna. Grazie al professor Ponti che ce l'ha spiegata. Noi adesso andiamo alle informazioni sul traffico, appunto, e torniamo tra un minuto a parlare di trasporto pubblico locale. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta dopo questa prima metà della trasmissione della Befana dedicata a spiegarvi il segreto del perché non potete sapere un cavolo di niente su come funziona in realtà l'aumento delle tariffe autostradali. Tanto per cambiare, pagate e state muti. E non lo sapremo mai, non c'è un solo politico che dica mi impegno a rendere pubblici i patti con i concessionari in base ai quali gli remuneriamo il capitale, gli garantiamo che non può perderci mai e può solo fare più soldi, più soldi, più soldi. È una vergogna. E andiamo però a un'altra pagina dolente che riguarda milioni di italiani ogni giorno, il trasporto pubblico locale. Allora, è con noi il coautore di un libro che a me ha riempito di soddisfazione, mi ha cavato molte curiosità, perché è un libro così, non lo leggevo da un mucchio di tempo, e io ve lo consiglio davvero, soprattutto se siete pendolari in ogni regione italiana e quindi pagate lo scotto di un sistema di trasporto pubblico locale che da anni e anni sta decadendo per qualità e quantità del servizio. Questo libro si intitola Ci scusiamo per il disagio, è un libro aggiornato con i dati fino a metà agosto del 2015 e regione per regione, cominciando dalla Sicilia, la Calabria, la Basilicata, la Puglia, la Campania, il Lazio, la Toscana, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, fa il quadro accurato del decadere dell'offerta, dei ritardi medi e delle punte apicali dei ritardi del trasporto pubblico locale, delle risorse stanziate, di quanto manca delle risorse stanziate, ed è davvero una lettura che ho trovato straordinaria per la quantità e la qualità di approfondimento che c'è dietro. Da anni le risorse stanziate a fronte della stretta della finanza pubblica locale e del taglio di investimenti pubblici, è la voce che è più diminuita in termini reali del totale della spesa pubblica italiana, che per il resto ha visto crescere la spesa corrente ma diminuire soprattutto quella per investimenti, ha visto un trasporto pubblico locale ingenerarsi un disastro sempre più vasto. E fare il quadro regione per regione dà l'idea delle condizioni spesso medievali in cui siamo. Devo dire, tratta per tratta e regione per regione, questo libro, Ci scusiamo per il disagio, testimonia che c'è in Italia chi fa veramente giornalismo e inchieste di servizio. Gerardo Dinolfi, grazie di essere con noi in questo giorno della Befana. Buonasera, grazie a voi. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, Ci scusiamo per il disagio, qual è l'editore? Sì, l'editore è Round Robin. Quindi lo trovano, insomma, nelle librerie. Esatto. Allora, io vorrei semplicemente chiedere questo. A settembre, per cominciare, a settembre del 2015, Ferrovie dello Stato, Trenitalia in particolare, ha inondato i giornali con la promessa di un grande investimento, un investimento per 4 e rotti miliardi, 500 treni per il trasporto pubblico locale. Nel libro voi lo definite una boccata d'ossigeno, ma se andiamo a vedere i problemi proprio delle reti, delle tratte su cui si concentrano più dei milioni di pendolari ogni giorno nel nostro paese, la verità è che neanche questi 503, che pure sono benvenuti, risolvono problemi di strozzature. Beh, è fantastica la descrizione che voi fate degli inchini che i treni regionali devono fare all'alta velocità, per esempio sulle reti toscane e così via, oppure le descrizioni devastanti che voi fate intorno a Napoli nella circumvesuviana passata da 40 milioni milioni di utenti a 10 milioni di utenti, tanto per dare l'idea di una grandezza del degrado del disservizio. Allora, come avete un capitolo conclusivo, cominciamo da quello. Secondo voi in che cosa si può davvero sperare il pendolare disperato oggi? Sì, esatto, noi abbiamo definito una boccata di ossigeno questo mega appalto di Trenitalia per comprare nuovi treni, in quanto in Italia il 60% dei treni che circolano ha circa 25 anni, quindi è considerato già vecchio e quindi soffre di guasti agli impianti di aria condizionata, di scaldamento, ma anche alla stessa marcia. Questo però non è soltanto l'unica soluzione che bisogna trovare per ridare dignità al trasporto ferroviario italiano, che è anche un servizio pubblico e che spesso non è l'altezza dei bisogni di chi viaggia. E noi elenchiamo nel libro alcuni aspetti che nel futuro bisognerebbe perseguire per risollevare i treni italiani, quindi nuovi treni, più nuovi, migliorare l'infrastruttura, perché spesso anche i binari hanno bisogno di avere la capacità di trasportare treni nuovi alle velocità necessarie. Questo in regioni come la Sicilia è proprio disastroso, siamo ancora veramente al disastro assoluto, indietro di decenni. Però quello che mi piace del vostro ragionamento è che ci mettete una parte che riguarda anche i meccanismi di mercato, perché qui, se andiamo a vedere le regioni che davvero hanno fatto le gare, voi descrivete la gara fatta dall'Emilia Romagna e ne mettete anche le critiche che sono fondate, secondo me illustrate i passi avanti che ha fatto il Piemonte per la nuova gara, e per il resto non ci siamo ancora. Perché questo meccanismo non prende piede? Sì, fare una gara è molto complicato. Per esempio, l'Emilia Romagna è stata la prima con le sue criticità che l'ha fatta, e Piemonte nel farla ha diviso il territorio in diversi lotti, perché dividendo il territorio si dà anche più possibilità ad aziende non enormi, con una disponibilità immediata minore in Trenitalia, di partecipare alla gara, perché Arena Ways ci insegna che altrimenti è come dire che la vince tutto l'ex, in realtà ancora adesso, monopolista Trenitalia, buonanotte. Esatto, anche Emilia Romagna appunto ha vinto poi un'azienda che è a metà tra regione e poi anche Trenitalia. Adesso anche in Lombardia Trenord è un'azienda che è formata da Trenitalia e la regione Lombardia. In Toscana, ad esempio, la regione firmerà a breve un contratto ponte di 6 anni per permettere alle aziende che vogliono partecipare alla gara di prendersi il tempo necessario per partecipare e capire come e dove investire. Però spesso è difficile, perché al sud soprattutto le regioni hanno debiti con Trenitalia, esatto, con le aziende di trasporto. In Calabria e in Campania hanno fino a 200 milioni di debiti, e quindi lì il Trenitalia, ad esempio, fa circolare i treni quasi per beneficenza. In Calabria, ad esempio, la regione non è riuscita neanche a completare il 2015 con le risorse che aveva per far circolare degnamente i treni sulle sue linee. Voi fate molti esempi, proprio parlando del capitolo in cui descrivete i disastri, i maggiori problemi della Calabria, come la linea ionica e così via, eccetera, eccetera. Riportate le dichiarazioni dell'assessore che dice: io per questo treno, proprio numeri alla mano, visto il numero di passeggeri medio quotidiano, bisogna passare su gomma, è inutile, io non posso mandare, io non ho i soldi per mandare i treni in perdita, è così. Sì, perché su alcune tratte, dice l'assessore della Calabria, l'autobus costa 7 volte di meno un treno. E quindi, a parità di utenti, si preferisce finanziare la gomma anziché il treno. Questo però con svantaggi per chi vuole spostarsi con una mobilità più sostenibile, esatto, e per chi vuole spostarsi con le aziende di servizio pubblico, non con quelli privati degli autobus. Ma non c'è bisogno, intorno a grandi conurbazioni, penso in particolare a Roma e a Napoli, di un discorso complessivo di riprogettazione urbana? Non è solo una questione di risorse sulle linee attuali, ma bisognerebbe ridefinire un po' i fondamenti strategici di come si fa il trasporto pubblico locale. Non bisognerebbe avere anche una logica molto più estesa di favore al car sharing, al carpooling e così via, cosa che oggi invece viene avversata dai più e così via? Cioè, basta solo tornare all'approccio tradizionale dicendo mettiamoci più risorse? Non basta più, diciamo. Anche uno studio che proietta il trasporto pubblico nel futuro e mostra come i pendolari cresceranno, ma diminuiranno quelli dei treni e quindi dei servizi pubblici a vantaggio di quelli dell'auto. Questo cosa che naturalmente, fermiamoci un secondo, come ha già lei detto prima, viola un luogo comune per il quale invece bisogna fare intermodalità tutta a favore del ferro per diminuire le emissioni. Esatto. Perché, ecco, questo bisogna saperlo che è così. Sì, perché appunto le città che stanno nascendo, che sono le megalopoli che stanno nascendo in questi anni, però nascono senza un criterio, cioè non, magari non vengono create stazioni intermodali e quindi vicine ai nuovi centri urbani che stanno nascendo nelle grandi città metropolitane, e quindi interi quartieri, intere nuove zone abitative restano tagliate fuori dalla vita poi della città, in quanto non possono essere collegate tramite ferro. Questo succede già oggi ad esempio in Campania e a Napoli, dove la periferia si lamenta in quanto i pendolari non possono raggiungere Napoli la sera, perché l'ultima corsa parte presto, verso le 21-22 di sera, quindi anche andare a teatro, andare a vedere la partita del Napoli allo stadio è impossibile col ferro, esattamente. Poi voi avete due capitoli finali che io trovo di espressione di grande civiltà nel vostro approccio. Dopo aver esaminato regione per regione il problema finanziario, quello delle infrastrutture, le responsabilità delle finanze locali impegnate, e aver raccolto anche le opinioni dei diversi comitati dei pendolari regione per regione, voi dedicate due capitoli finali, uno al tema della sicurezza. La sicurezza, intervistate, fate parlare il personale, e il personale parla in questi ultimi anni di una condizione di sicurezza che loro non sono in grado di garantire a bordo del trasporto pubblico locale. E ce n'è un altro, di grandissima civiltà, che dichiara quanto siamo arretrati per il sostegno ai disabili che prendono il trasporto pubblico locale. Come mai vi è venuta queste due appendici? Noi abbiamo cercato di fare un quadro completo del trasporto ferroviario, quindi di dare voce non soltanto a chi viaggia, ma anche a chi lavora, perché i treni non sono soltanto di passeggeri, ma anche appunto di controllori, di chi ci lavora sul treno. Abbiamo raccontato la storia di Riccardo, che è un capotreno siciliano che fu accoltellato lo scorso anno a bordo di un treno nei pressi di Taormina, perché un viaggiatore non aveva il biglietto, e lui dice: mi hanno accoltellato, la mia vita vale meno di 5 euro quanto il prezzo del biglietto che non aveva appunto il viaggiatore. E ora lui, a distanza di un anno, non riesce più a viaggiare su un treno neanche come passeggero, mentre il suo aggressore continua a viaggiare senza biglietto a bordo dei convogli siciliani. Quindi è anche una questione non soltanto di trasporti, ma anche una questione anche di certezza della pena. A me ha molto colpito, sì, questo è un problema che riguarda la sicurezza italiana a tutti i livelli. A me ha molto colpito, per esempio, nei dati disaggregati regione per regione degli interventi fatti a sostegno dei disabili, nell'ultimo anno a Sardegna c'è, nella tabella di diverse regioni, c'è un numero che mi ha lasciato agghiacciato: 0. Che naturalmente, escludendo che in Sardegna non ci siano disabili, vuol dire che lì proprio siamo alla carenza assoluta di una qualunque struttura per agevolare ai disabili l'uso del trasporto pubblico ferroviario. Sì, l'azienda di trasporto più grande d'Italia, Trenitalia, ha attivato appunto da anni la Sala Blu, che si occupa appunto di accompagnare i disabili quando ne fanno richiesta in stazione e poi aiutarli nel loro viaggio. Però spesso le difficoltà non sono soltanto operative, perché manca non solo la cultura, ma anche la possibilità di accedere alle stazioni. Abbiamo registrato diversi casi in Sardegna, ma anche in Toscana, ma anche nel Lazio, di ascensori guasti, di pendolari lasciati sui binari a causa di un treno che magari non era accessibile, o comunque che hanno dovuto subire un disagio. Senta, per chiarissimo. Chiudiamo con una curiosità: perché in tutta la diversa categorizzazione dei treni italiani, dall'alta velocità agli intercity regionali, e quelli che battono tutti i record di ritardo e di inaffidabilità sono gli intercity? Intercity sono un po' una categoria, ecco, più trascurata forse oggi in Italia. Sono treni non a mercato, quindi sono gestiti dallo Stato con risorse statali, con un contratto che però non viene rinnovato da Stato e Trenitalia. È scaduto lo scorso anno ed è in via di rinnovo, e spesso sono appunto i treni che fanno più ritardi. Secondo i nostri calcoli sono un Messina-Palermo e un Taranto-Milano. Intercity sono i due treni italiani più ritardatari. Voi riportate un treno che ha ritardi fino a 143 minuti, cioè, che sono delle cose da spaventevoli. Io posso solo invitare i nostri ascoltatori in questo pomeriggio della Befana, veramente vale la pena di leggere questo libro. Ci scusiamo per il disagio, Gerardo Dinolfi è uno dei due coautori di questo libro. Per il resto, cari pendolari, speriamo in bene, buona Befana, continuate l'ascolto di Radio 24, appuntamento domani mattina alle 8:15 con Attenti a Noi Due. Torna Alessandro Milan insieme a me domani mattina.